Questa quella per me pari solo a quant'altre d'intorno, d'intorno mi vedo. Del mio core l'impero non cedo, meglio ad una che ad altre beltà. La costoro avvenenza è qual dono di quel fato le infiora la vita. So di questa mi torna gradita, forse un'altra, forse un'altra, domanda sarà una. La costanza tiranna del core detestiamo, quel morbo crudele. So chi vuole si servi fedele, non m'avornono se non v'è libertà. Due mariti il geloso furore, degli amanti le strani e derido. Anco d'arco di cent'occhi di sfido, se mi punge una qualche beltà. Se mi punge una qualche beltà.